Cambio. Attenzione, canale 10, chi è all'ascolto, cambio. Attenzione, canale 10, questo è il monitor della modulazione, questo è la trasmissione, cioè qui c'è la trasmissione. Vedi, questo è spento, eh. Attenzione, canale 10, Claudio Natalino, chi c'è qua? Avanti, chi chiama? Natalino, chi c'è all'ascolto? Attenzione, canale 10, chi c'è all'ascolto? Cambio. Claudio, Natalino, forza, mettete fuori le teste, alzatevi dal letto. Attenzione, canale 10, chi è all'ascolto? Cambio. Scendete dai letti, forza. Corrado, io ti sento, da dove moduli? Io sono in macchina. No, io sto uscendo da qui con... Oia. Oh, porco. Ah, eccolo qua. Hola, c'è qualche morto di sonno in giro? Auli, ule. Adesso sei entrato. Oh, vi stavo chiamando prima perché stavamo provando un apparecchio da vendere. Vabbè, è entrato Massimiliano. Tutto provato e tutto venduto. Tutto venduto, cosa hai venduto? Hai venduto quell'Intec, cosa hai venduto? Già lo so. Marco Massimiliano che ti ha dato un controllo. Sì, Intec FM 548 6X, gli ho cambiato il cavo perché il suo era patetico, proprio non stava accendendo, allora gli ho messo il cavo nuovo e ce l'avevo da parte. Insomma, tanto lui gli serve per stare in fila tra camion e camion, non è che lo deve fare Colt oppure mettere amplificati, no, così gli serve, nudo e crudo. Diciamo anche chi è, non ti preoccupare. Va bene, anche la cifra è buona. Ok, adesso andiamo a prendere l'altra roba e poi spero che te la metti a posto questa moto. Magari, solo che te l'ho detto, se voglio vendere devo mettere tutto su eBay o su Roger K e poi fare le spedizioni, perché a me mi rompe le palle un bel fare i pacchi, andare alle poste. Mamma mia, va bene, non ci pensiamo, dai. Va bene, ok, meglio così, dai. Io purtroppo non prendo, compro. Eia. Oh, naturalmente uno se vuole vendere un sacrificio lo deve fare. Spedire, preparare i pacchi, spedire i pacchi, capito? Se no qua chi li vende? Poi Graziano solo una volta me l'ha chiesto quell'apparato, poi non vedo che zittisce, quindi era un fuoco di paglia, dai. E mi hai fatto pregare se va in chiesa, se lo vuoi è qua, vieni te lo biglio, se no non la vado a pregare nessuno, Marco, assolutamente, capito? Vabbè, comunque, se l'hai venduto quello va bene così, adesso cerca di vendere anche quell'8008, l'ho visto ancora lì in vetrina. Capito? Se vendi quello magari riesci a metterti a posto bene la moto e così sei a posto. Eia. Sì, che poi in realtà è un 8009. Io dicevo sempre 8008 perché tiro con, invece è un 8009, cioè modula solo in FM, però fai 29 MHz dove ci sono i ponti ripetitori, certo. I 29 MHz, i 50, sempre la fettina della banda FM, no? Insomma 29-50, poi tutta la V e tutta la U, è già modificato, espanso, eccetera. L'ho già avuta con la radio, però io ce l'avevo in macchina ed era un po' troppo complicata per la macchina, capito? Allora l'avevo tolta e avevo messo quello della Kenwood, che era molto semplice e basta, però è una buona radio. Bottega, sì, è un peccato anche da, però d'altronde mi devo decidere. Beh, diciamo che una volta che ti memorizzi i ponti a casa, no? Ti metti i ponti, lo shift, il tono, tutto, una volta che sto pronto, te lo metti in macchina, cambi solo il canale di memoria e sei dove vuoi tu. Poi io non so usare nulla comunque, so fare solo web denaro, modificare la potenza, tutte le altre funzioni sono funzioni amatoriali, shift, così, tutta roba che io non userò mai. Beh, ho capito, ma ci fa Natalino il 23, cazzo, giorno è ovvio del 23. Adesso è entrata, voglio chiamare io, non c'era nessuno che ci dava un controllo. Alla fine ha chiamato Massimiliano, quella persona, è entrato e ci ha dato il controllo. Oi, che ore sono? Si vede? Le 6 e 17, beh, vedo che la gente entra dalle 6 in poi, dalle 6 in poi. Prima niente, alle 5 e mezza, voglia chiamare. Avevo sentito solo sul 10 un certo Corrado che modula dalla barra mobile. Dalla barra mobile. Però era la Budi Budi e quindi arrivava, non arrivava in macchina, capito? Perché io c'avevo l'altro baracchino in macchina, quello che uso io, capito? Sì, ho capito, capito. No, no, io mi sto dalla partita quello, che è domenica mi metto alle 5 gradi, no, sono entrato adesso, fa un po' stacco pure perché il carro è già sistemato, ma sta giocando l'Italia lì contro il Milan e vado a vedermi cosa. Domenica, almeno la domenica, non è che sto così, dai. Ho detto, c'è Natalino, sono 23, parlando con Graziano. Magari ha trovato vuoto qua, pochi secondi, ha trovato vuoto, è andato là. Poi quella volta, ti ricordi, mi ha detto, no, che ce l'avamo sul 10, cosa, non fare polemiche. No, io ho ascoltato 30 secondi sul 10, non ho chiamato, ho ascoltato, non ho sentito nessuno, è andato su 23, per quello era. Certe volte non chiamo, giustamente, quindi poi se la gente un istante dopo entra non me ne accorgo. Che partita hai detto, quella che devono dare adesso? Italia di Mila. Ma se te lo chiami io sono all'ascolto, se chiami ti rispondo, come adesso. Ma se tu non chiami e ascolti, io cosa ne so. Quindi, la stessa cosa, io Natalino non lo sento chiamare, ero qua. Ero qua che stavo ascoltando un po' la banda amatoriale. Però se non chiamate io, ve l'ho già detto, non mi chiamo né bip né fischio, ok? A me se chiamate, attenzione, canale 10, e vi presentate io rispondo, se no io non rispondo a nessuno. Beh, in effetti quello sì. Natalino se volte fa il bip solo, non chiama. Dipende. Poi gli chiedo com'è andata ieri per la storia della chiave, dopo verso 23 glielo chiedo. Vai, chiedi, cioè non ti preoccupare, già sono qua io, vai. Poi c'è gente anche sul solito PMR, ma l'ha detto il giorno che io e Pomponi abbiamo detto di questo PMR, ma l'ha detto sì a quel giorno. Non fanno male a nessuno, ma è parlare come si parla qua, la stessa cosa. Sono persone educate, tranquille, serene, fanno le sue chiacchiere, scherzano, ridono e va bene così. Io l'ascolto sempre, anche adesso li sto ascoltando, però a volume un po' più basso, se no mi rientra qua. Non va bene fare ascoltare le cose agli altri. Vai al 23, interpella Natalino, io sono qua, a parte il fatto che ti ascolto lo stesso, vai. Eia, vabbè, adesso fra poco vado, dai. Volevo mangiare prima oggi, prima è uno scherzo, non dire prima. No, cosa ti voglio raccontare, boh? No, niente, vabbè. Mi è sfuggito, dai, non me lo ricordo. Te l'ho detto, guarda, gli unici che degni meritano di essere tenuti sono i 3.900. Gli altri, sì, magari mi dispiace magari venderli per... Però questa moto non va bene lasciarla ferma. Moto, scooter, dai. Se no cosa cacchio l'abbiamo comprata a fare? Lasciala ferma. Poi quando avrò in futuro soldi gli metterò a posto la trasmissione, perché lì c'è qualcosa che non va, o ci sono i rulli consumati, o la campana, o la cinghia, vabbè la cinghia no, magari. C'è qualcosina sulla trasmissione che è da migliorare, perché si sente che è arrivato a 40 sicuri, che prima di arrivare di pilare velocità ci prende un po' troppo, quindi... E vabbè... Vabbè, hai riportato al meccanico, la lascio lì, io gli dici guarda, fa così e così, revisionami tutto, oppure fammi prima un preventivo e te la fai mettere a posto, perché lo scooter così serve, a me serve tantissimo, mi sposto poco, anche stamattina sono uscito, nonostante c'è freddo, c'è il microproblema, ma esco a fare commissioni al centro, perché in macchina è un casino, capito, poi nella zona detta ti devo entrare con la moto, quindi va bene. C'è problema. Va bene, sono qua in ascolto, allora se vuoi andare al 23 vai al 23 tranquillo. Sì, vediamo dai. Vediamo. Avrei un po' di fame, ma un po' di fame. Gira girami come a mangiare, poi già ci sentiamo dopo. Vabbè, tu se devi guardare, a che ora è questa partita? Stanno già giocando, ma mia moglie sta guardando a quella zoccola di Barbara D'Urso. Mi sta così antipatica, non posso vederla, ma adesso mi accendo l'altra TV e do uno sguardo, ma non è che, non è la Juve, non mi interessa, ma i Cagliari, uno di quei giocatori nuovi che ha comprato, che se giocano bene, capite? Tutto qua. Babbo, sono qui comunque, lo sono sempre in ascolto qua su 10. Ah, Barbara D'Urso, ella. Eppure, aspetta, una bottarella gliela darei volentieri. Certo, se la vedi struccata te ne va la un raio, perché l'ho vista. Da questa sicula che è, Barbara D'Urso, quella non è possibile. Poi sai cos'è? In quel programma mettono tutte le luci alte, no? Sembra slavata, mettono il filtro flu un po' sfumato per non far vedere le rughette, capito? È fatto ad arte, per farla sembrare più giovane di quant'è. No, infatti, è così proprio, è napolitana, Carmela si chiama, capito? Carmela si chiama. Il vero nome è Carmela, così è, Barbara è il nome d'arte. Sì, si chiama Carmelita, veramente. Anche il nome napoletano, Carmela. Beh, sarebbe in realtà più siculo siciliano. Carmela, vieni qua. Mamma mia, va bene. Oh, non ho voglia di andare su 23, non so perché. Mi piacerebbe stare più qua. Vediamo se mi sente l'Atalina in splatter. L'Atalina! No, non mi puoi mai sentire in splatter. Guarda, io non ho nessuno vicinissimo. Assolutamente. Perché per quanto vicino anche quel ragazzo che modula da Viale San Francesco, come si chiama? Salvatore. Non splattera. Poi ormai questi baracchini splatter non ne pigliano, non è più come una volta. Vabbè. Pace bene a tutti. Oh, pace bene a lei, padre Gianfranco. Sempre l'ascolto. Va bene, mi sto allontanando. Ciao Claudio, ciao Marco. Entro dopo che devo mettere uno spino con la nota. Certo, ma quando viene a prendere quel DM? Ma perché? Sto musicando, lasciato di. No, c'è qua, non ti preoccupare. Era per vedere quei tocchi, quelle cose magari. Va bene, ok. Salda, lasciamo qua. Se mi deve essere subito da questa ora non sarei qua, guarda. Sarei, dopo c'è il caldo, un po' una compagnia, un po' saldatura che ho fatto. Ti lascio. Tu sei sempre venne. No, io stamattina non sapevo cosa fare. Ho fatto un po' di pulizia qua, nel senso spostato per radio, messo a terra, puliti tutti i piani, perché sotto volevo polvere, capito, poi con le vene. pentole ce lo porta dentro, allora ho pulito tutto, l'ho messo tutto in linea, io sto per ammazzare un po' il tempo. Se non ci fosse stato vento, se tanto si vuole dare uno sguardo, ma minchia, raffiche di vento così stamattina, adesso è calato un po', ma una strada di merda. E vabbè, ci aggiorniamo dopo, Gianfra. E prendi, Marco. Sì, ho letto del vento, ha rallentato i traghetti anche, roba del genere, un po' di macello, dai. Però che fosse a 100 orari, non lo so, non ci credo. Non lo so, a meno che proprio sulla costa, nelle zone esposte, boh. Sì, penso no, certo no, comunque. Qua tra la provincia di Sassari e la provincia di Cagliari è toccato i 40-45, poi fuori non lo so, non so, io non ce l'ho l'elevatore dei venti. Tu Gianfra l'hai visto? Ce l'hai, sì. Natalino. Oi. Ciao Natalino. E beh, com'è andata la storia di ieri? Avete scoperto niente? L'avete ritrovata la chiave? No, no. Ieri sono andato, ho comprato il blocchetto e me l'ha dato il sinistro e poi i destri non ce li aveva. Perché sono dovuto andare stamattina, meno male mi ha portato serratura e tutto, sono dovuto comprare tutta la serratura. A risolvere il casino di bus sulla ciambana la serratura, non hai idea tu. Ah, te l'hai fatto tu, però adesso siete al sicuro, dico, sì. Eppure bisognava andare a bussare e dire, ma qua ci abitiamo solo noi, la mia chiave era nella toppa, dove è andata? Non è andato quell'amico mio a dirglielo, ha detto che ieri non ha toccato nulla e mi ha raggiunto la cuvia. Comunque gli ho messo anche la maniglia di quelle che girano a vuoto, no, il pomello gira a vuoto fuori, se non ha la chiave non entri più. Perché io avevo piazzato quello che mi avevano dato, che da fuori potevi aprire, no? Invece se la poggi chiude e boom, avrai gridato davvero. Va bene, l'importante è che abbiate risolto. Quanto avete speso in tutto? Allora, la serratura costava 95 euro, poi ho speso 11 euro per il kit per renderlo blindato del tutto, che da fuori non puoi aprire se non hai la chiave. Gliel'ho cambiata la maniglia, no? Adesso c'ho la maniglia, il pomello è una serratura, ha due chiavi. No. Più quella per fare il codice. Caspita, e l'hai messa tu, pensa, se avessi chiamato il fabbro ti avrebbe preso e ci avresti pagato ancora di più, anche la manodopera avresti pagato. Ma visto che lo sai fare tu, meglio così. E io lo grido, allora lo casino che vivo, perché devi togliere tutte le cornici, filare il pannello di dietro, perché sennò non si vede la serratura, capito? Io ne ho smontata dentro il blocchetto con la serratura piazzata. Cazzo, figurati. Poi ho dovuto smontare stamattina la serratura e me l'ho piazzato il blocchetto suo. Sono andato da Bricomen a prenderlo e non ne avevano blocchetti destri. E allora ho dovuto comprare tutta la serratura, infatti mi è rimasta la serratura nuova qua, con le due chiavi, figurati. Adesso vedo un po' se serve a qualcuno la serratura blindata e la do, non me ne faccio niente, perché se la piazzo da un'altra parte va bene, ma qua cazzo ci sono le armi, c'è un sacco di cose, no? E meglio anzi anche le telecamere devo piazzare, ce le ho già pronte qua da piazzare, adesso me le piazzo, due qua e una fuori. Mica c'è Claudio anche me. Sì, cappa. E gli oggi inteso ancora, che era solamente tre parano un graziano. Ma io te l'ho detto, tanto adesso ce l'ho sceso più 100 euro. Ma cazzo quel pomello lo dovevi togliere? Anche la mia è così. Adesso, inizialmente no, inizialmente era il pomello interno e il pomello esterno, apribile. Poi quando abbiamo cambiato la serratura, praticamente abbiamo messo il finto pomello full, capite? Solo per tirare la porta, uguale a quello di dentro. Però non gira, quindi anche noi siamo nella stessa situazione tua. Se ti dimentichi oggi di chiavi, tocca brincare la bacone. Se ti dimentichi di chiavi, gli so caprio, si non dai ripassati, ma se dai ripassati un cazzo l'apri. La posso aprire anche io con la carta telefonica, capito, un lamierino leggero leggero, già si può aprire. Una volta l'ho fatto a mie suoceri, se non ho lasciato la chiave fuori, capito? Quindi già lo so. Però se non dai le passate, ma se ce le passate la porta blindata non l'apri, devi dargli a cannello, su quello non ci piove. E io lo grido, no, non l'apri no. Poi gli ho messo rinforzi nel coso, io così così a tirannia. La mia chiude anche, c'ha, come si chiama, quelli, stanca da un sacco di rocchi, quindi è un casotto. Se tu dai ribassati è un macello. Adesso c'è la serratura nuova, nuova, per l'immagine il blocchetto non ce l'avevano, destro. Ho dovuto cambiare tutta la serratura. Però tu dicendo, te l'ho detto ieri, i blocchetti non verranno di quelle porte lì, quelle porte normali ci sono i cosi, capito? E la mia, figurati che ha, ne ha tre punte a destra, tre punte a sinistra, due sotto e due sopra. Allora ben uscisci. Quindi che metti in ferro, in acciaio inossidabile. E come fai a aprire? Assolutamente. È una bella porta. Va bene, vai Marco, riprendi. Eia, va bene, come si dice Nathalie, tutto bene ciò che finisce bene. Ma guarda un po', abitate solo voi lì, e chi può averla presa se non lui? Ma gente strana, ma chi è il giornalista? No, quel delinquente che era agli arresti domiciliari, che era sempre con la pistola addosso ieri, carica, figurati. Ah, ma cioè quante abitanti siete? Ci sei tu al primo piano e poi? E quello del terzo è un napoletano che viene a scopare con una tipa qua. A tre piani sono, mi ricordavo due piani. No, tre so. Capito? Oh signor, praticamente c'è solo lui, quello del secondo piano che me l'ha fregata, le delinquenze, era agli arresti domiciliari, ma si puniva lo capo Drento, mi lo quasi usa a caia, rimane, me l'ha fatto un cazzo, e Drento morì, perché gli davo un colpo solo a testa e lui in bocca lo sparava, così si fulminava. Vabbè, ma quello c'entra disarmato, è come che fosse un omicidio volontario. Al limite lo puoi sparare alla gamba, lo puoi invalidare, ma a sparare in testa, quello sai, no? C'è sempre il processo che dice giusto, com'è che dicono, giusta? No, boh. Non ti puoi manco più difendere in Italia, capito? Se gli spari nelle spalle mentre scappa è omicidio, e quello è anche vero. È tutto lungo, è com'è che si dice? Ma non mi viene. Eccesso di legittima difesa, però se tu gli spari un colpo solo è legittima difesa perché non stai infierendo. Io l'ho sparato in bocca e ti blocca tutti i centri nervosi. Boom. Muori di subito. Lei l'ha detto quando lo sta dicendo. E allora, ma sa chi non sia, perché non è vero, io avevo paura per la mia incolumità e ho sparato. E non mi vado in un cazzo di morire dentro. A chi non devi fuggire? Muore dentro. Se lo sparo io lo sparo in bocca. E gli arriva in bocca il corpo. Buonasera. Ciao già, Natalino è sempre un estremista, eh? Ti ammazzerebbe perché gli hai rubato una pagnotta a me. Vai Gianni. Ma perché, cosa è successo Natalino? No, non ho acceso adesso, vai, buonasera. E cosa è successo? Che mi hanno filato le chiavi dalla serratura e ho dovuto cambiare tutta la serratura del portoncino blindato. Canaredo mi è cucciato. Vabbè che adesso ho messo anche il kit per non poter aprire là fuori. Se non hai la chiave un cazzo apri. E io se grazie a quello che vuole le attenzioni, chiamati la casa che hanno rubato. Sicuramente. E già lo sappiamo chi è, però la paga. E pure visto di fronte la paga, chiamami Vindication, non ha fatto un cazzo. Signoria, 764 euro la serratura è bello che ne ho due adesso funzionanti, serrature. Perché cazzano, ma il blocchetto destro non ce l'avevano, ho dovuto cambiare proprio tutta la serratura. Cazzo, lo casino mi ha cucciato, cazzo, ma ci ho dovuto cavare tutti i cornici, cazzo, lo pannello, ma pure la giambata, ti credi sia così? Lo so come funziona, lo so, perché quando l'ho fatta in una casa con un amico, con lui va bene, aspetta perché lavora in edifici di mezzi di Parlamento. L'ho aiutato e abbiamo dovuto montare il pannello, poi ci sono tutte quelle piastrine che se non vanno bene devi giambare, devi cercare quella che combacia, è un casino. E a parte che gli ha messo le viti lunghe, cazzo, oltre le sue, gli ho messo dei sassetti con delle viti lunghe almeno 30-40 centimetri. Da una parte o dall'altra, col cavolo la smonti quella. Mica c'è un signore che ti vuole salutare. Salutami! Eh beh, ma le 50 lire ce le hai? In quale situazione? Cazzo, che situazione mi hai messo? Cazzo, non comprendo mai cosa gli dici. Le 50 lire cosa è successo? Già lo sappiamo io e Marco. Ma va bene, lo posso raccontare io. Marco Porto, con Ratta Pignala, come preferisci chiamarti? No, dalle 50 lire io non so niente a Ratta lì. Oh, me ne sono dimenticato? Spiegalo tu, Natalino, non so di cosa state parlando. Non sei tu il Marco, è l'altro il Marco, il Nuvoli. Aspetta, cazzo, il Nuvoli. Cazzo, che situazione. Vivi lo Marco, come sarà la situazione? Saluta che non venia per quello che ho fatto, ma può succedere a tutti gli altri. che tu qualche volta entri senza fare il break, eccetera, eccetera. Quindi correggiamo e io correggo a te. Sì, ha ragione, siamo maleducati. A me mi hanno detto che ho il linguaggio colorito, infatti non volevo più entrare perché io sai che si colorava la situazione. Io come sai della frequenza non ho mai fatto break in vita mia e continuo a non farne mai, quindi è poco da correggermi. Sì, allora non devi correggere gli altri, scusa, se non le... Non vi affarrendi per fesserie, mi. Dai, tutti contro tutti. Si vede che sta perdendo colpi. Certo che stavo scherzando, apri di Larecci. Vabbè, non c'è problema. Io sono sempre schietto. No, tu sei sempre polemico, che diverso. Affarrendivi. Fate girare, dai. No, Claudio c'ha sicuramente un occhio e un orecchio alla partita e un occhio e un orecchio alla radio, vero? Ma tu nel salone dove sei adesso ce l'hai il televisore con la partita, sì? O devi andare nell'altra stanza dove c'è la Barbara D'Urso? No, non sto guardando la partita e sono qua, stavo ascoltando, c'è anche a Franco comunque. Sono qua, cos'è la partita? No, c'è mia moglie, sono la Barbara D'Urso, un altro televisore grande. Gli altri sono piccoli e non mi piace vederla, capito? Ma non mi interessa, c'è Cagliari Milan, è giusto così, ho visto che stanno giocando, ma non mi interessa. Io mi gioco domani, gli altri me le guardate tutte all'ora di pranzo, capito? Stamattina a mezzogiorno e mezza mi stavo guardando Atalanta Napoli, un culo di Napoli, il pittoso, ho fatto un gol in fuorigioco. Avrebbe pareggiato a Bergamo, ha fatto il gabbattacco a Taranto. Va bene, avanti, avanti, avanti. Buonasera, buonasera. Ti ha chiamato quella persona? Che gli ho dato il numero io, scusa. Non ti hanno chiamato? Mi hanno chiesto il tuo numero e gliel'ho dato. Non lo so, io non lo so. Se voleva parlare gliel'ho dato il numero. Capito? Non il tuo, è quello di casa, perché io quello tuo non lo ho nessuno. Aspetta, non lo so, io non mi metto in mezzo alle cose degli altri, non lo so, mi ha chiesto un numero, ho detto vabbè, non tiro quello suo, perché io tra l'altro non c'ho neanche il tuo. Ho dato quello di casa tua. Ah, te male devo dire qua che ti chiama, non ti chiama? Oh Gianni, un bambino mi sembri. Ti ho detto una persona che conosci bene. Vabbè, chiamami al telefono così ti dico chi è quello che ti stava cercando, vai. Ok. Riprendi Natalia. Aspetta, no, è un fenomeno, un avvenimento eccezionale. Capri 2 è entrato e sta uscendo bene alla prima. Mai sentito? Ehi, ehi, va bene, va bene. Dai, fate girare, già sono qua io, tanto non c'è problema ormai. Ehi, ehi, naturalmente Capri, Santiago 8, non è fortissimo, Santiago 8, ma la radio è buona, non c'hai alternata, non c'hai scariche, perfetta, dai. Una volta tanto, sei entrato, come Dio comanda, vai Gianni. Niente, Gianni si è offeso, vuoi Natalino? E aspetta un attimo che stavo mandando... E io fra poco guardo un attimo. Sai che ci ho preso Gianni? E così poco. Ehi, ehi, c'è anche Gianni. Sicuramente che sta parlando in verticale. Cosa? Non c'è so niente, non maschio, sto scherzando. Ho detto anche che ho scherzato. Oh, ragazzi, mi sono commenti. Io chiamami però Gianni, 2 minuti, così ti dico chi è che ti stava cercando. Se poi devo uscire, non mi ha portato neanche il telefono appresso. Natalì, ma io questo l'ho già visto, o l'hai comprato nuovo? Era quello che dovevo regalare a te, solo che non ne hai voluto tu perché dice che ce l'avevi così. Beh, non proprio così, ma ne ho tanti, sai, per fare picnic, roba, o l'Opinel, o il Mora Companion, poi ho preso un Fiskars, marca strana, manico leggero, addirittura galleggia quello, con la col fodero sintetico, no, in polimeri, quello che è. Ehi, dai, tienili tu, dai. Se lo comincio a fare collezione e non so più dove metterli. Ehi, caspettina, c'ho anche quello di Bear Grylls, io, tipo quello. Sì, ah, poi ho letto, questo gli ho capito. Così giustificavi la cosa. Oh Marco, il telefono. Al telefono ho detto Natalino, quindi Gianni ci sei ancora? Stai parlando in verticale? Io sto aspettando che mi chiami Capri. Io sono qua comunque. Sì, vabbè, Natalino al telefono, Gianni è sparito. Gianfranco, stai saldando ancora? Gianfranco non ha risposto la chiamata poco fa. Mamma mia, l'ho messo tutto il giorno a casa, sono uscito. Ho sbagliato il microfono, c'è solo, però sono tagliato. Eia, ok. Caspita, quando sono uscito da casa c'erano numerosi parcheggi sotto casa, cioè nella via qua. Intorno non c'era un... Ma io dico, questa gente domenica non va a negozi, non va allo Auchan, non va a trovare gente, tutti qua, tutti a casa. Mamma mia, una cosa l'ho sicuro trovata su, in via Savoia, ho parcheggiato. L'unico che c'era di parcheggio, l'unico. Infatti una volta inveisco, ma è possibile che questi stronzi non escano mai, sono sempre a casa, le macchine tutte sotto casa, boh. Non è un casino, io quando andavo in via San Francesco era un casino, dovevo mettere sempre la macchina o giù o sotto o dall'altra parte, mai ho trovato posteggio qua. Ma se rispondo a Capri, Marco. Sì, io. Marco, ci sei? Ora, Gianni Capri 2, ci sei? Ma te che sono al telefono? Capra. Ma Marco dov'è? Chiamalo, c'ho al telefono. Marco, ci sei, Gabbio? Eccomi qua. Ok. Vediamo allora, Natalino, dove sei? Ha detto che era al telefono. Marco? Gianni doppio rum, ci sei, sì? Che è entrato anche Capri? Eccoci, siamo qua. Ok, molto bene. Capri 2? Dove sei andato a mettere il telefono a posto? Va bene. Ok. Cosa stai usando, il Galaxy? Io sì. Ah, si sente la modulazione. Sì, io ormai ho un po' di tempo fermo, visto considerato che adesso mi hanno messo di sera a lavorare, quindi avevo per mezzo di tutto, c'è più nessuno, e ho detto, entro alle 2, sono alle 9:30, ero 2:15, ora ero 9:30, sono a casa. Minchia, io sono pazzi. Minchia, c'è un macchia, vero? Sono dalle 2 alle 9:30, mamma mia. Non ce la facevo io quando ce l'avevo rientro a fare tutta un'attività fino alle 5:30 alle 6, a volte 6:30, non di più, figurati dalle 2 alle 9, mamma mia. E quando sono venuto qua, sono qui, sono qui che ancora avevo quell'orario, non mi piace proprio perché non mi posso riposare dopo pranzo, io sono passato a fare la pedichella, mi riposo al piede, scusate, invece quando c'è quell'orario lì devo mangiare a mezzogiorno, perché poi devo portare 3 giorni, all'1:30 a fatto, adesso voglio lì due. Ehi, a Capri, adesso te le lancio. No, ma proprio per quello già, hai capito? Perché anch'io sono abituato, anche quando uscivo alle 2:30, cioè alle 2:30, arrivavo a casa alle 2:30, mangiavo in fretta, poi mi traiavo fino alle 4:30, alle 5. È un'abitudine oramai, quindi immagino che ti stiano proprio prendendo tutte le abitudini, tutte le cose. Mamma mia, fatta ridere i soli. Vai, Capri 2, riprendi. Bella radio. Oh, anche tu che esce bene. Ma Marco invece si è allontanato perché lo va a pappare. Riprendi già. Sì, io ho trovato a segnare perché al buio cercando di abbassare il volume, poco fa ho toccato qualche altra cosa, non so se le preghine, cosa, quindi non te lo do, adesso non aiutarmi, accendi la luce, sono al buio con i luci notturne. Sì, ti ha detto anche Gianni, funziona molto bene, sia il Pace 123 che il Tokai 5024, 5008. Ieri non mi piacevi con quel microfono da tavolo, la voce era gracchiante, tutta piena di rumori, capito? Questi vanno bene, ottimo per la truppa. Come lo senti, Giacomo? No, qua sei 9 qualcosa, quindi segnale, vabbè, io sono di fronte a te. Però come radio è buona, anche da te arrivava bene di radio, già. Sì, sì, di radio benissimo, è molto chiara, presente, bella chiara. Il segnale è 3, però te lo devo fare rapidamente perché non lo so se ho toccato la repeghina o che cosa. Sono al buio, se l'ho fatto toccare. Invece ho sbagliato, poi ho cercato di rimettere in posizione come la prima, ma bisogna essere beccato, va. Ehi, ehi, gappa, no, ma comunque non mi piaceva la modulazione. Questa è bella chiara, anche se il microfono è normale, va bene, capito, va benissimo, alla grande. Ah, io Marco Condor, hai finito di mangiare, che ti ci mangiai i gocciucci, ti ci mangiai? Il lo godeva. No, non ho mangiato, ero su 23 a salutare, che qua eravate spariti momentaneamente tutti, sono entrato lì così due parole e poi sono rientrato qua. No, dovrei scallare la roba, però a me piace essere servito, il problema mio è quello. Mi devo alzare, devo accendere il gas, ma stiamo scherzando. All'aino, se vi abbia il servizio, vi vedi, fate l'immagine. Madroni di Luca, chi è pronto? Avanti. Ciao Alessio, la modulazione è bassa, dai, sta bene. La modulazione è bassa, Santiago, sei in mezzo. Ci confermo. Ehi, abbassa, abbassa, anche qua. Non gli dare troppi fatti, Antonelli. E anche Saturino la modulazione, mi sembra, no? Mamma mia, non mi dire che ha messo quei finali, quei finti, diciamo, 69 che vende Fusaro, fintissimi. Gli unici veri sono quelli Mitsubishi, con lo logo Mitsubishi. Mamma mia, i due SC 1969, purtroppo stanno diventando rari, anzi mi sa che non ne trovi proprio più originali. Gli altri sono mondezza cinese. Ah, dopo riuscite a Marco con questo microfono. Da poco di roba nella dratta, guarda che bella radio che c'è. Appunto, glielo volevo chiedere, che microfono è, Marco? Allora, questo è l'MB più 5 sul 3009 non omologato, col trimmer aperto. Allora, il tono è a 3 e il volume del mic è a 7. Sì, me l'ha lodata anche ieri, solo che a me questi microfoni da tavolo non mi scompifferano tanto, preferisco quello da palmo. Comunque vedo che va abbastanza bene, vabbè, ogni tanto bisogna farlo lavorare l'MB più 5, perché sennò lo stesso a stare fermo si rovina, si guasta. Vabbè, tenendo conto delle radio che io ho sempre detto, qua il 27 di quelle che ascolto, vabbè, tu la attacchi ogni tanto, però di quelle che ascolto, quella che mi piace di più è quella di Gianni col Galaxy, con un leggero eco, bella chiara, forte, molto bella. Oh, anche lui c'ha altri baracchini, quindi li fa girare, è chiaro che pure la modulazione cambia, però questa è molto bella. Vai Capri 2, cos'hai cambiato di nuovo radio? Sì, io di quello c'è il Volmase che ho dato a Marco Scorpio. È originale, cassone celeste, in buonissime condizioni. Che uguale a quello, però il base. Sì, no, stai uscendo benissimo. Vai, doppio rumo, fai girare. Io ce l'ho un microfono di Tokai, già. Eia, scusate, nel frattempo ho acceso il fornello, ok? Che fra poco mangio che va giù fame. Non so di cosa stavate parlando, di Tokai o roba del genere, sì, comunque è bella la radio comunque. Ma e gli Spinotti, ha risolto il falso contatto degli Spinotti dell'antenna, sì? Eia, gappa, va bene. No, ma quei microfoni, come ti diceva Gianni, ma io mi ricordo anche il mio, a volte faceva quel difetto lì, c'hanno queste lamelle, e quindi magari si oscillano, capito? E fanno quel difetto, e non conviene buttarle spray, niente, tu lo apri, prendi della tela fine, la più fine possibile, le dai una pulitina, capito? E poi lo richiudi e vedrai che non te lo fa più. Però sono dei microfoni eccezionali, hanno una modulazione, guarda, che sembrano microfoni preamplificati, capito? Li prendi in Atari. A me me l'aveva regalato mio fratello, quello lì, me l'hanno rubato dalla macchina, visto che è 5024. Era bellissimo, nuovo nuovo, Sempre compresso, non fa musica. E c'ha il compressore di dinamica, c'ha quel trasformatorino piccolino, Sì, vai doppio rum. Eia, è preamplificato, diciamo che non è proprio preamplificato, ma è, c'ha un preamplificatore interno, pizzeritico, che cos'è. Comunque esce bene come radio, io non so se quello lì può funzionare anche in una radio normale, la domanda è questa, posso applicare in un'altra radio quello lì con la stessa funzione che mi funziona del compressore che c'ha? Bisogna che sia di quelli che funzionano a relì, se no non funziona, compreso. Quello è precompresso si chiama, non amplificato. A chi va un compressore dinamica dentro, che usa un trasformatorino piccolino che c'è dentro. Sì, è precompresso, insomma. Io l'ho aperto, l'ho pulito, fatto, io ce l'avevo il toccai. Però quando io l'ho dato il toccai, non l'ho dato col microfono virale, il microfono me lo tenere da te. Perché il microfono era un buon nuovo e non faceva tanto, c'era ancora il nylon, ho fatto un gomito. E l'ho dato l'altro microfono della mia principale, del paese. Già ci va bene lo stesso. Quando l'ho dato il microfono proprio più piano, non ce l'ho ancora a casa. Antonella, dal giorno alla notte. Di lusso. Eia, adesso sì che pompa il microfono di Pomponio. E perché non lo dai a me quel Connex 4000, a becchino? No, adesso ci bene Antonella. Va bene. Non aumentare però come ti ha detto Marco, Va benissimo. Già, ma era proprio anche la radio, non solo il microfono. Io mi ricordo, ho avuto il 5024 e il 5008 quando ero portatore a casa di mamma, ed anche il Pace 123. Ma il toccai era proprio anche la radio che spingeva, non solo perché all'interno come era fatto, come non era fatto, a prescindere dal microfono, ma anche la radio spingeva, come la KB23, spingeva un bel anche col microfono suo originale, già capito? Sì, poi erano radio che erano belle massicce, sono la stessa cosa delle radio di adesso, insomma. Io abbiamo avuto, toccai, abbiamo avuto 2-3, una volta è venuto qua per a casa, 1-2-3, tu mi aiuti, li pago, ti mi fatto pure, abbiamo avuto toccai, era nuovo. E ce l'ha ancora quella, guarda toccaglielo, non lo ha nessuno. Perché l'ultima volta che mi aveva letto, mi aveva proprio letto che l'hai virato tu. È nuovo. E quello di nuovo, perché tu mi avevi detto che è quella persona buonanima, rientrato nella tua radio, lui sempre questo, quello devi evitare a casa loro. Ehi, entrare così, se mi mandi in chivi, mi ricordo sempre una domenica mattina che ero a casa di Tore, poverino, e tu, girando, che lui c'era 9.40, girando, ero in 10 metri, non mi ricordo se avevo 8.400 o 8.450, eri 9.10, ho detto non è possibile, ho detto non può essere che è qua, cioè ne è abbastanza preciso in queste cose, infatti ti ho chiamato e non mi hai risposto, ho detto vuoi vedere che è dall'altra parte, ho girato e eri sul 5, infatti te l'avevo detto, no, hai fatto bene, ehi qualche armonica, un peccato veramente perché è nuova quella radio, lui ne ha altre due o tre ma non sono come quella che gli hai dato tu, 5 Ernesto c'ha questo, così è già. Cosa ci sta bene? 5 Ernesto c'ha. No, io c'ho 3 consegnati. 5 Ernesto toccai c'ha. Attenzione per cortesia. Non hai capito già, ha detto che lui c'ha 5 toccai e io ti ho detto c'ha 5 Ernesto. Ah! Ma sono tutti quanti da. Io praticamente cos'è che avevo dato a Vava. L'avevo preso su internet, avevo conosciuto questo signore che praticamente aveva la collezione di radio nuove di Zecca di altri tempi in vetrina che doveva mettersi praticamente delle radio amatoriali, perché di questa storia di amatoriali doveva farsi spazio, quindi della vetrina, insomma spostare un po' tutto per fare spazio per le radio amatoriali. Cosa è successo? Che vedo, c'ho tante radio, io ti mando l'elenco, sono tutte nuove di Zecca, mai usate, cioè capito cosa vuol dire, mai usate, le compravo e le metto per vetrina, le compravo e le metto per vetrina. Fatto sta che un paio di lavoro comprate, tra cui un'altra che l'avevo lavorato da Tanino, che era l'LMS 200, la Tanino si ricorda com'era, se si ricorda, praticamente l'avevano fatto la modifica, non so perché, dice che voleva spinto di microfono, di che cosa, però quella radio lì era perfetta, sono arrivate con lei, non il microfono, qua, era un uomo di zecca, qua, qui. Sì, sì, ma ti credo, l'ho vista perché l'avevo vista, era, non era, nuovissima, proprio perfetta, con la cosa in gomma, originale, molto bella, ok, va bene, avanti Natali, cosa stavi dicendo? Volevo un'informazione da, da Gianni. Asco, l'altro attacco del Magnum, tu siccome ci avevi le stenove così, va col microfono normale di quelli omologati oppure no? Perché adesso l'MP4 come lo entro mi fa una trombetta, e così il microfono normale. Volevo sapere quello, se non gli metto a mano col tester e mi trovo le connessioni giuste. No, è indifferente, Natale, può mettere sia l'uno che l'altro, è indifferente da tutte e due le parti. L'unica cosa che c'è è che tu devi abbassare l'amplificazione del microfono, perché col microfono amplificato ti farà sempre la trombetta per il microfono, per il baracchino. Perché c'è già amplificato l'apparato. Se tu dimetti anche il microfono amplificato, è come quando tu metti il microfono amplificato in un apparecchio che è stato modificato, capito? È la stessa cosa. Si innesca perché è già forte l'apparecchio, quindi devi abbassare sia, non lo puoi usare praticamente con le sue caratteristiche, devi abbassare sempre sia la potenza che sia microfonica che di base. Ecco cosa devi fare, devi uscire come un baracchino normale, e quindi non ti conviene metterlo, secondo me non conviene. E io che vabbè vabbè, volevo sapere quello, e mi pare ne parlo uno degli sidui normali, e lo metto lì, e questo non lo uso più perché troppi problemi là. Manco 5 watt, 4 watt, sto scendendo 4 watt, il macchina lo sai a quanto è? A 3. Ma per i microfoni sono precompresi anche qui, di Natale, c'è poco da fare, poi c'è il troppo down, c'è tutte queste cose che mi fanno andare molto più forte dei microfoni normali. Si è capitato in una zona proprio, guarda, che cazzo di liquidità, tranquilli, figli. Allora che chi vuole interruzione, cazzo di sì, chi vuole io a scrivania piena, cazzo, e poi ti sciupare cosa bumi e canti fatti dove bumi. Lì già non mi disturbava nessuno veramente. Cazzo. No, che è tutto un macello, guarda, ma giù le scatole piene, adesso bisogna trovare il padrone del terzo piano, adesso mi fa salire sul tetto, almeno la salgo, la tena, perché quella lì è troppo bassa. Così il primo stazione dove è attaccato si rende tutto addrento e ondeggia di meno. No, e ci do fai la domanda a Maragazza Comunale, non te la va? Non lo so. Me ne danno, non lo so, ma vediamo un po'. Allora, Claudio di qui. Kappa Kappa, mi sto vestendo, sono un po' lungo in bocca. Ho detto Natali, ma non c'è la possibilità di tornare su di là, no? No, ci ho messo a mio fratello che si è separato dalla moglie, in casa mia ci abita mio fratello, e nell'altra l'altro mio fratello, e cosa abitava con la moglie ci abita mio nipote. Ascolta, ma nell'altra, quella che era fissata anche lì? Quella che era fissata è la mia, c'è mio fratello. Ah, ho capito, adesso ho capito. Peccato. Lì era un bel posto, posizione, tutto. Non volevi chiedere permesso a nessuno, quel casino lì, ne lo so, già abbiamo fatto miracoli, già lo so, per mettere quell'antenna. Però se questi sono deficienti non capiscono che il problema è loro, non è il tuo. Dove ti dica? Mi prendi Marcolino? Marcolino starà affilando le forchette e i coltelli. Oh, yeah. Dopo quando entra gli dico cosa mi sono comprato da Lidl. Yeah. Oh, cosa volevo dire? Purtroppo è così. Oh, riesco a salire il palo perché è troppo basso. Oh, ma già, quando cambia la missione penso che non disturbo più a nessuno, Cla. Perché fra un po' la televisione non la vedono veramente. Sì, penso che ci siano meno problemi, capito? Cambia la frequenza, cambia tutto, però devi sempre vedere un pochino loro. Ok. Caprillo, riprendi? Sì, Filippo sta piangendo, io tu vuoi uscire. Dai, io vado, se ci siete sentiamo tra un quarto d'ora, 20 minuti. Riprendi Caprillo. Gianni non riprende. Filippo, ti tiro le labbrocce quando ti vedo. Sì, sentite cos'è, Francarlo. No, uscivo. Io vai a prendere il passeggino, io no, no? Adesso vado a prendere il passeggino. È pochetto qui su piano. Vabbè, riprendi già. Oggi ne ho visto uno su internet che ragionava con un padrone, ti immagini, ci fa vecchia, ma cos'è che dimmi cosa vuoi? E ma vuoi uscire? E il mio fa così, E l'altro giorno gli ho detto, tu comprendi? Cazzo, gli ho detto, ma fame c'hai, perché non c'aveva le crocchette nel coso, nella ciotola mia, le aveva finite. E due attacca a guaire come un cucciolo. Gli ho messo le crocchette, c'aveva proprio fame, comprendi tutto? Ne manca solo la parola. Ma va, già dei capelli. C'è un innesco. No, capi due, c'è un innesco che ti copre. No, sempre. Gianni, guardato là il telefono, ti ho mandato un messaggio. No, Natalia, non ho sentito sua. Dimmi, capi. Ehi, è benissimo, con il microfono suo è perfetto e forte, è chiaro. Ecco. Ma tu che antenna stai usando, capi due adesso? L'hai comprata da internet? Sì, vabbè, ma già si fa sentire. Ma è massiccia come antenna, come la mano. Cosa dipenda se magari era la posizione della persona che più diceva no? E poi gli ha. E vabbè là. Comunque dopo le prese, da chi le prese? Perché ma mi adesso è rimasta a tre radiali, una mattina 5, a tre radiali. Però ho buttato le comacche, ma spaccati su. Magari quello che dura, perché se la mattina 5 in turbo non serve più a nulla. E la mia se ne sta ridendo sopra 12 metri di palo, cazzo, in campagna, nuova. Anda, cara mia, la salita, dai, a me, se non ti esiste. Io cosa me ne faccio? Non mi posso pure un'antenna come teghista in occhio, no? Che pesa un trono. E la faremo, la equipia, vogliamo da me, tanto la mia è, sta, diciamo, non hanno declino, L'ho sceso già due volte, punta due volte, fatto radiare due volte, adesso cazzo mi hanno invaso la radiali, va sempre bene perché va bene già un vinti, ma mi mancano tre radiali adesso, no, due radiali. Erano i praticati e tenevano i lampati di curracista e chi si posano in chivi e la vetroresina è un caso. No, che era nell'alluminio, che qui c'è stato lampati d'alluminio pieno, era più positivo, la lenta di chiscia grossa, fatta di grocchi, per tirarli, no, di modo che quando si mettono sopra non rispettano. E beh, intanto deve essere che hanno tirato, l'hanno presa, che se l'hanno spaccata, sicuramente come che stava a cavallo, lì dalla strada l'ha troncata. È che è un casino, allora io sono più debole, troppo debole, gioco. Se non ti avrei regalato la mia, quella che c'è in campagna, ne ha più varata. Tanto due sezioni da 6 metri sono, praticamente tu molli un bullone e senza la trento, lo lì attaccato l'antenna e fa la pinza a 6 metri, compreso? Io ci sto il bombo di radiali sopra, questo qui c'è il parametro, quindi due radiali adibiti, dove ho messo gli altri, abbiamo messo il coso delle sceglie, se ne c'è per i tirolini che ci mettono nelle sceglie per le inferno, abbiamo messo qui come finale nel radiale, sembrava un bombo di radiali adibiti. E al limite ti do una mano, se la vuoi fare la aggiustiamo, non c'è problema. Ci mettiamo attorno ai radiali in vetro resina, la lenza per tenerla bella amprosa. E gli altri capelli, 5 radiali. E perché non li ho fatti da qui, io li ho fatti in ferro, qui per la mia resina. La resina però c'è vetrizzata, vetrificata. Gli metti la Game Master ed è una bomba che si antenna. Sì, ma la Game Master non vede al resto che fa vicino a casa, si rompe. Marco, passa al 15. Sì, ya. Vai al 15. La Natalia sarà su 13, mi pare. Sì, ya. Dovrò farlo un PC a Marco. Sì, va bene. Adesso non ne vendono più quante, non c'è niente, più che la massa da 5 che dà problemi, dà problemi nella carica, dà problemi qua, di corpo, di coso, quindi non è più di male. Abbiamo parlato lui. No, abbiamo parlato lui, io stavo parlando, tu mi hai parlato, non so se sotto o sopra. Esci, prendi la tua mollettina e te ne esci. Ma... E tua moglie sta lavorando tua moglie. E all'altro non è andata bene, a Ottavio all'altro non è andata bene con voi. Vabbè, purtroppo lì, come la città del fatto, c'è quello in cui, se non ne hai. E non sta pressionando, non la faccio le gambe, Ottavio, non sta pressionando. Vabbè, purtroppo la notte è quella, riserva anche queste cose, le devi fare. Io ci da ieri, no, quando soccorso, figura, ieri sino dalle 3 sino alle 11 un quarto era pronto soccorso. E avevano fatto queste scarpe ortopediche, erano strette in punta, ne ho messo per andare a lavorare, che se non ci dobbiamo muovere, senti pure di stare a trafficare il corso che devi faccia la mano. A un certo punto ho preso l'aereoscopio, scatta che sono le scatta che sono messo in piedi, avevo gli arancini, tutti rossi, viola, tutti i piedi in cuscia attorno alle unghie, dove sono un occhio preso quelle anche quelle, non c'è circolazione, i piedi freddi, queste qui sono le scatte. Ed erano le scatte strette in tutta, gli altri che hanno fatto questa cosa, avevano dovuto incidere. Già, devo chiudere che è venuta gente, là, ci sentiamo alle prossime. Ci sentiamo, ciao. Di tram sono fainé. Lo so, ma così che erano scarpe ortopediche, dovevano farlo bene, invece l'hanno fatto male. Che loro tentano, va bene, se no c'è tu che ci rimettono loro, e quello è il problema, ma c'è. macchina che costa 800 euro così. Oh già, non sono mutuabili, le ha dovute pagare di tasca. Costa 800 euro adesso, non ho mai fatto le dovute pagare di tasca, no. Costa 800 euro comunque la scarpa. Ti danno una palante. Ma caspita, è una follia il prezzo, mi. Poi non erano manco adatte, a giù mai ti bloccano la circolazione al piedi. A giù mai, ma erano bloccata. Ti sto dicendo che sono dovuto andare a tosta sacco, mi hanno inciso di vista perché erano in bus. C'è roba da matti, roba da matti. Ma la colpa non sarebbe di chi ha prescritto la scarpa ortopedica sbagliata, no? No, è di chi l'ha fatta le scarpe. Che le ha fatte troppo strette in tutta. Io ho detto che c'avevo una 44-45, lui me l'ha fatta troppo strette sempre perché hai mi sentivo fasciato il piede, capito? Le dita erano raggrappate all'interno, non passava bene il sangue e stava bloccando la circolazione, erano viola lì. Aspetta, roba da matti. Ebbene, non pensano che ci sono persone che hanno la pianta stretta del piede come me o la pianta larga anche. Non ci pensano, no? I medici sono peggio degli stregoni. No, mi hanno misurato tutto, fatto, eccetera, però ha sbagliato facendo una scarpa, dai. Non è possibile. Vabbè, roba da matti, so già, proprio, o ti hanno fatto la fattura a te, cosa tutta a te sta succedendo, non lo so, tutto sul piede. E il fatto è che sono delicati, la parte più delicata di una persona diabetica sono dei figli, e se tu li martingeli, li dai colpi, eccetera, eccetera, è normale che... Ma non penso che tutto è partito da quel vetro rotto a terra. Ah, bisogna mandare gli accidenti a chi ha rotto quella bottiglia. E se ne mandi uguali, ma lascia perdere. Ho visto tante cose così, la porta soccorso, hanno portato tanta di quella gente con influenza, amato, in coma, praticamente inerti, ragazze giovani, anziani, insomma, c'erano tantissime urgenze, infatti ho aspettato tantissimo, tanto dalle tre che c'ero sono riuscito fuori alle 11:10, 11:15. Infatti ho detto qui, via via, c'è un tavolo, ci apparecchiamo il tavolo e mangiamo. Ma... infatti volevo dire già, se uno va lì, no, e ci sono per i malati di influenza, no, e non l'ha presa, rischia di prendersela lì, a pronto soccorso. Te l'ho detto che bisogna, nei luoghi affollati bisogna andare con la mascherina, davvero, me. La mascherina chirurgica per non pigliarsi malattie. Alle poste, sai, ti tossiscono in faccia, ti tossiscono. E vabbè, ho sentito che è brutta, un po' di gente distrutta che non finita all'ospedale, mamma, la sto temendo quasi. Ma ho portato una ragazza che 30 anni, che era inerte, non si muoveva più, si ha toccato, niente. Signorina, signora, come sta? Non c'è ma così, ma non si lamentava. A un certo punto dava un colpo di tosse, una vomitata. Lo fa, lo fa. Natalino e la moglie erano a cosa, vomiti, a diarrea, di tutto, dice, è terribile questa. Infatti l'hanno detto anche a TV, la peggiore degli ultimi 10 anni, o forse la peggiore anche degli ultimi decenni, questa influenza. Sto temendo davvero, mi. solo che poi se ti vedono alle poste, nelle file con questa mascherina, ti pigliano per appessato. ti pensano che abbia qualche male brutto, che non puoi prendere il tuo. Facciamo quello. Io ti dico una cosa, io mangio molte arancia e anche diciamo tutti i tipi di frutta, però arancia e mandarini, mandarancia, questa roba qua che contiene vitamina C. E ti dico la verità, mi tocco, però sono anni, anni, anni, io non mi ricordo di aver avuto tutti i fuori. Guarda, io anni fa no, però poi col passare degli anni queste nuove influenze a qualcuno me la son beccata, qualcuno. Mamma non se ne becca mai perché aveva passato la famosa mamma del 43, cosa poteva essere? Non mi ricordo se si chiami o la spagnola o cos'era, è praticamente immunizzata alla gran parte delle influenze moderne. La cura che ha fatto praticamente la rese. Cioè l'influenza che le era venuta da giovane, adesso non mi ricordo se era spagnola o come si chiamava, sembra quasi che l'abbia immunizzata ai ceppi che si sono originati da quella famosa influenza, capito? Comunque per questa volta si è, come si dice, si è vaccinata, siccome è anziana, sai, un po' così, si è voluta vaccinare. No, ah sì Claudio, no, che vaiolo, influenza, aveva un nome particolare, io nessuno se la ricorda, adesso chiedo a mamma. Asiatica, cos'è? Sì, forse l'asiatica, qual era? No, la spagnola era quella che aveva fatto milioni di morti all'inizio del secolo, mi pare, no? Funzione soltanto entrate. Quest'anno stava portando un medico in ospedale, quindi ambulanza sirena. Ma tu non hai curiosità, buonasera a tutti. Ma dove ce li hai? Sotto il letto per queste radio? Che ogni ora ne cambi una. Apri stella! Sì, già ho capito io. Allora l'officina turitana quel contratto ce l'ha, capito? Soprattutto quando c'è a fare lo scavo, la nicchia, fanno tutto 600 euro, fanno lo scavo, passano quello che devono passare. Pronto, poi il fontaniere e poi bitumano, se non c'era bitumare che c'era cementare, cementano, però hanno finito il lavoro. 600 euro per contratto, lo so perché ne ho fatto tanti, quindi firmavo io il buono per poi poter loro fatturare la banola, quindi lo sto dicendo, e vabbè, è andata così, mi hai speso più del doppio. Luca, esce, avevo anche voglia di sentirti qua al 27, oramai sono abituato a sentirti sempre in PMR. Sì, ciao Cla, vabbè, sono rientrato presto a casa, dai. Sennò poi magari mi abbiocco là, è un casino. Niente, mi sto riparando un microfono, Cla, che mi hanno venduto, mi hanno fregato. Un MV più 7 mi serve lo schema. Mamma mia, MV più 7 non serve a nulla con quel microfono, è molto meglio il più 5, ma molto molto molto meglio. L'avevano proposto anche a me una volta, meno male non l'ho preso. Lo schema, dove lo trovo lo schema di quel microfono? Quindi se sei pratico, se hai internet, prova a vedere se lo trovi, Gianni, riprendi il tuo room. Ciao! E magari su internet lo trovi, metti MV7 e cosa, come si chiama? Dettagli e lo trovi. Già c'è, ne vendi più 7, ehi, ne hai fatto esemplare, ne hai venduto uno, mamma mia, è uguale MB più 5, c'ha l'altra funzione dell'ecco, ma è uguale MB più 5, l'hanno chiamato MB più 7, ma l'avevano dato a me a provare, ma era così brutta la modulazione che ho detto, non mi piace, non mi serve, devo restituirlo, non mi ricordo manco che me l'aveva dato. L'aveva comprato anche lui e non le piaceva, capito? Vai Marco. Sto ancora mangiando io, eh. Allora sì, infatti l'MB più 5 e l'MB più 4 sono i soliti più usati. L'MB più 7 l'ho visto solo su internet, sì c'ha l'eco, però boh, chi l'ha mai provato? O Luca, prova sull'archivio di Roger K, potrebbe avere lo schema elettrico. Sull'archivio schemi elettrici di Roger K. Però qui lo dico, qui lo nego, potrebbe averlo e non averlo. Sì, vabbè, ascolta, ho collegato i fili, cioè praticamente la portante è calza nero e io aggancio col test il calza nero e sale. Però secondo me il relay è in corto, perché c'è un relay lì e il filo va agganciato di sopra il relay. Non mi conviene alla fine ripararlo, perché il relay costa 15 euro. No, sono relay che sono usa e getta, non li puoi manco aprire niente. Non è l'ho controllato con la lente, non ha ossido, niente. C'è qualche relay, c'è quel relay che è in corto, non va, non dà segni di vita. Allora, quel microfono è preamplificato, Roger beep e camera ecco. Gianni, ci sei, sparito. Ho capito, vedi, ma Marco sta mangiando. Ehi, controlla lì Luca comunque, ma non pensare che sia un microfono eccezionale. Molto meglio il P4 e il P5. Il P7 ne hanno venduto molto, molto pochi. Ma il Natalino non c'è più, a mangiare è andato. Sì, l'avevo detto prima. Era arrivata la Fainé, è andata la moglie a prenderla, io gli ho detto di traverso la Fainé. Ci è arrivata in ritardo, io ce l'avevo, l'ho regalata a Giulio, che mi ha fatto dei piccoli lavori che non ha voluto niente, allora mi piaceva, l'ho fatto a lui, capito? Ce n'è un baracchino e non ne ho più. Più salata non ne ho, se no te l'avrei dato volentieri, tanto è un microfono che a me non piace esteticamente non mi piace, mi piace più quello della ZG, più 4, più 5, il più 2 vattavolo, il più 3 vattavolo, ma quello è un microfono che non mi piace così a tubo, capito? Non, quella flessibile non ci vado molto d'accordo io. Ok, Gianni ci sei, doppio rumo, Gianni faceva il telefono, ripetito Marco, è finito di mangiare. Ehi, sono le 8, da regionale, vabbè, non ne guardo, me lo guardo direttamente tramite computer, tanto ci sono solo disgrazie. E quindi cosa stavo dicendo, alle 8 e mezza il caffè, abbiamo rimesso in funzione la macchinetta del caffè che era tutta fossilizzata proprio dalla... l'ho pulita bene, ho spurgato con l'acqua bollente tutta la... e quindi adesso la facciamo con quello il caffè, dai, con la macchinetta, come vuoi chiamare. Non è a capsule però, non è nemmeno a cialde, lì si mette il caffè in polvere, c'è il pressino per pressarla, poi lo metti e ti fa il caffè. Però a cialde è più comoda, non devi pulire niente, nulla, premi, basta, scende il caffè, butti la cialda, non devi pulire niente, lì ci bisogna pulire un po' tutta la farina dove metti il caffè e anche l'erogatore da dove esce il vapore. Sì, io credo che facciamo bene, quelle vecchie labialetti erano le migliori, ce l'ho anch'io una, caffè a casa non la prende nessuno, non la prende nessuno, mia figlia fa colazione al lavoro, io esco tutte le mattine, alle 8 e mezza, ho le piazze da scegli, il caffè di casa non mi piace, ma te lo proprio non macchiato, macchinetta no, non abbiamo neanche macchinetta, niente, pure perché non la prende nessuno il caffè. Ok, Luca, le prendi? Gianni? Tutti morti. Capri 2 ha detto che costano le cialde, no? E quello è vero, ma il profumo e il sapore che hanno quelle cialde è una cosa inimmaginabile. Tu come scende il caffè della macchinetta, proprio il profumo del caffè riempie tutta la stanza. Capito? È una cosa eccezionale. Quello lì con la polvere, insomma, che metti la polvere, così così, né infamia né lode, diciamo, dai. E la mazza, sempre roba antica. Non detta. Sì, arancione col tubo anziché il flessibile che si abbassava e si alzava, sì, arancione con i tasti di dell'occhio rosso spigliare. Fatti conto, non so, comunque sono dei buoni microfoni secondo l'abbinamento che fai. Magari in altre radio non vanno bene, però secondo la radio che la metti funziona bene. Avanti Marco, le prendi. Eia, ma Gianni non c'è più, o chi altro vi ha chiamato? Luca del Monte, ci sei? Sto facendo una cosa al telefono, dai, non un attimo un ascolto. Anzi no, porto il cane, fai la pipì, arrivo subito. Eia già, se devo riprendere, dai, che sono senza parole, non so cosa dire, ormai ho pranzato e... non ho più fiato. E adesso a che ora ci rimango? A mezzanotte. L'ora delle streghe. Eia, guarda, noi solo quando andiamo da Oshan a mangiare, che ne so, il kebab, dalle 2:15, 2:30, 2, allora se prendiamo a quell'ora, poi prendiamo alle 9 di sera, capito? E boh, però sono casi fortuiti, dai. Va bene. E lo stile di vita è quello, purtroppo. E la mattina mi viene a gre, mamma mia, mi ha sonno la mattina. Alle 2:30 ero ancora con la lingua fuori a letto. Perché dormo da più tardi, però si sposta il ciclo, capito? Poi vabbè, mi sono fatto il bagno, bello, un bijou, non la doccia, il bagno proprio. Io certe volte mi si addormento, mi è pericoloso pure. Posso scivolare con la testa sotto e muoio affogato. Ti addormenti nella doccia, cazzo, la vasca da bagno, invece io non mi posso più sedere perché non riesco più a alzarmi. Devo fare la doccia per poco. A me piaceva fare il bagno. Tre ore. Già, che problema hai? Già viene Marco a lavarti. Ti lavo la schiena, Gianni, e anche altro. Il problema è che non ho più forza nelle braccia con riscaldare il corpo per alzare. Ho paura di cadere, capito? Perché sono già caduto due volte, adesso ti farò togliere la vasca e farò mettere la luce sicuramente. No, io ho sbagliato la spalla al bordo e mi sono fatto male veramente. Ma roba di 5-6 volte, poi non ce l'ho fatta più, ho perso l'equilibrio, poi tu sono caduto malamente. Eia. Caspita, addirittura a riempire la vasca avevo svuotato lo scaldabagno da 80 litri, com'è possibile? Era bello caldo, tutto l'ho svuotato lo scaldabagno, infatti poi un po' risciacquando ho detto, ma come mai, già finita l'acqua calda, boh. Però il bagno è bello, mi ricordo quando ero bambino, la doccia sì è più veloce, ma il bagno è una goduria, guarda. Poi puoi fare l'idromassaggio da dietro, amico, le bolle, tra, e vedi le bolle salire giù. Non ho capito. Cosa c'è? Il motore a vapore? La cabina. Tu boxe dove c'era la cabina? La cabina se ne fu. Cosa hai pagato? La stessa castello la cabina. No, perché non c'è più questa castello. La cabina, sì, sono qua. Lasciato poi sbattere preso Gianni e io sono ci sovramodulevamo. Ho detto sarà bella Gianni la luce perché è veloce, se poi c'è il box è tutto bello fatto, sono belle cose, però il rilassamento che hai nella vasca è allucinante. No. Parlando di vasca mi avete ricordato quel film basato su una storia vera, quello delle vasche di deprivazione sensoriale. Erano degli esperimenti fatti da uno psicoanalista da partire dagli anni 50. Praticamente tu ti metti in questa vasca, che poi viene chiusa completamente dalla luce, da tutto, no? E c'è dentro una soluzione acquosa di solfato di magnesio, in modo da farti galleggiare ancora di più, no? E praticamente galleggiando su questo liquido ti sembra di non avere più peso, no? Questa vasca si chiude completamente, è roba, certo non è roba che uno può avere in casa, no? E cominci a rilassarti in un modo mai sentito prima, poi puoi avere anche delle esperienze strane, allucinazioni, oppure non lo so, esperienze introspettive, non lo so, una cosa strana da spiegarmi, vasca di deprivazione sensoriale, ne avevano parlato già in vari film, in vari telefilm, anche in una puntata del Dottor House l'hanno nominata. Ma cos'è una vasca idromassaggio, che cos'è? No, è una vasca, sembra quasi un sarcofago, no? È una cosa per studi psico, è una cosa strana, no, non è. L'idromassaggio me lo faccio io, col QSO però, capito? Butto aria e vedi ribollire tutta l'acqua. Deve essere una cosa bella da vedere. Conoscendo ti dico proprio una cosa bellissima da vedere. Ci deve essere proprio una perturbazione d'aria compressa in quella vasca che, per carità di Dio, io prendo il Perù. Sì, non sai cosa fai, Marco? Il giorno prima hai fatto il bagno a mangi fagioli. Io sì, non male più, promesso che lo fai per tutto il tempo. Poi il bello, il brutto, anzi, quando le bolle arrivano in superficie, no? E si sente l'aroma. E te l'ho detto, questa è una cosa bellissima da vedere. Da vedere, da sentire, passa via e prendi Capri. Ciao Capri, ciao, a domani se coincide, buona cena, buon tutto e buon inizio settimana. Vai, doppio rum. Sì, ciao Gianni, ci sentiamo, non mangiare troppo, poi ti fa male. ciao, ci sentiamo, la roba. Avanti, va. Ciao Capri, dai, buona serata, buon tutto e ci sentiamo domani. Comunque adesso ve ne dico una, non è balla, non è balla, se volete vi posso fare foto. Allora, le mutande, no, dopo che le uso un certo numero di volte, no, a turno ovviamente, mica me le tengo un mese, insomma dopo vari cambi della stessa cosa mutanda mi si bucano puntualmente proprio all'altezza del buccio, ma è corrosivo il gas, non lo so, mi si bucano proprio sul buco del sedere, è una cosa che non si spiega all'anima. C'è un petto male per forza. Ma c'è meglio Lugaci che ti rivolgaci, Isso Maria, a fare il buco proprio lì, e lo già vai, oh, molto piccolo, Giuseppe lì. Ciao Giuseppe, spero non abbia ascoltato tutte le cose che ha detto Marco, indecenti proprio, non ho capito, cosa hai detto? C'ha problemi lui, è un peccatore, capito? Vai doppio rum. Ciao Giuseppe, buonasera. Sono problemi fisiologici che ha Marco, perché mangia molti fagioli, capito? Sì, quando mi si rompono sempre da dietro lì, è una cosa che non si crede. E cosa fa? Cloropicrina, fosgene, non lo so, sembra acido proprio il gas, non lo so. E vabbè, quindi quando le butto è perché sono bucate dietro, capito? Proprio in corrispondenza del foro, non andiamo in particolari. Come stavi dicendo che ti ho detto di piccoli medaglioni? Cioè medaglioni? No, non ti seguo. Cioè medaglioni? No, chi è che sta prendendo la portante? Scusate. Ma adesso medaglioni che può prima tutto, ma questo è questo microfono, guarda qua, uno, due, tre, dopo le cose. Oh, barattolato è così, che microfono è? Bruttino, vero Claudio? No, qual è la mia tizia? Era molto meglio l'altro. La mia tizia, sì, ha ragione Marco, è barattolosa, molto cupa, non mi piace. Aspetta Antonè, cos'è un F10? F Foxtrot 10 della Midland CTE? Ma ce l'ho uguale, è una gagadda proprio, scusa Giuseppe, è una porcheria, ce l'ho anch'io, no, non serve a niente. Già, non ho capito i medaglioni, che vuol dire? Sì, ma spiegatelo come posso fare. Quando tu fai il beat, sai che cos'è? Non ti seguo. Ma cosa vuoi dire? Il bollo sulle mutande vuoi dire? Esatto. Vabbè, certe volte no. Adesso non. Chi si ascolta, sembra aria, no? Tu vai a fare e poi senti umido e trovi il bollo sulle mutande, il timbro postale. Ecco, si chiamano medaglione. No. Vabbè, io lo chiamo il bollo, il timbro. Mosè, cosa ti tocca sentire? Avvicciaia, cosa ti tocca sentire? A proposito, come stai? Vabbè, beh, ti sento abbastanza bene, comunque bella radio, bello forte, piano piano, piano piano si va avanti. Vabbè, io ci vuoi fare. Allora Antonai, facci sentire questo Savelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lascia stare questo microfono, gli altri mettilo dentro il cassetto. Dentro il cassonetto, casomai. Il Savelta è il migliore di tutti. E già, già lascio questa, allora già va bene. Sono contento, sono contento. Ma perché il Comex qua aveva i finali hai bruciato? No, c'era un corto, un finale in corto c'era, l'ho tolto, l'ho cambiato, gli ho messo il 2012 e va benissimo, funziona bene. E quanti watt dà? 15 lo stesso. Oh, non lo conoscevo, 2CC2312, così è? Sì, a 2CC2312. Meglio per te. Vado bene lo stesso, costano anche di meno, non so l'altro. Ah, e da chi l'hai preso? Da Fuso? Sì, hanno pagato 5 euro, però almeno se sono buoni, meglio di quello che mi è stato dato l'altra volta, e c'è un watt. Eia. Guarda, di 2CC1969 fasulli, ce n'è un be, ma te ne accorgi dall'aspetto, fanno schifo, ti danno un watt, robaccia cinese, capito? I Mitsubishi erano buoni, i veri 2SC, però a trovarli è un'impresa adesso, oppure te li fanno pagare col sangue. Sì, già lo so, infatti ho messo 22 per quello, tanto va bene lo stesso questo, funziona bene, non dà problemi, c'è forte, è perfetto. Magari la bici ce l'ha, Tony, come un vanno di magazzino. Oh, non c'è più niente, Torino, no, non hai capito, non c'è più niente. Sono andato alla Lula, stavolta, ho chiesto voluto. Insomma, mi ha aiutato qua. E tu bello elemento, si è detto, sei diventato. Cosa me ne frega di comprare i componenti, non ci guadagno nulla, devo stare a prendere a 20 a 20. A 20. Poi dice la 27 è morta, non viene quasi più nessuno. E allora gli ho detto, cosa vuoi ti dica, io so. Fai come la Corsica, gli ho detto. Sì, ma i corsicani vengono da te a comprare le apparecchie, adesso non ci viene più nessuno. Ah, ho sentito l'altro giorno, chissà cosa deve avere dietro, cioè già davanti è tutto scatole, chissà dietro nel magazzino cosa, come deve essere, non deve essere una cosa allucinante. Tanto l'ho detto io, Gianni, questo è il DAC con l'MB più 5, potenza quasi 20 watt, ho messo le valvole nuove, tutto ripristinato, tutto a posto. Mi hanno detto che va bene, che va benissimo. Ecco, adesso è pronto per dare a me. Già, lo sai perché non lo farei un torto a Daniele, che mi ha sempre detto quando lo devi dare avvisami, capito? Quindi per non fare un torto a nessuno rimane qua. No, è l'unico baracchino che c'ho sempre attivo, anche sotto antenna, perché commuto, lo accendo e passo direttamente qua. Però abbiamo fatto le prove con Roberto Quadrato e mi ha detto che è una bellissima modulazione. MB più 5, infatti adesso sono i suoi, circa 20, in AM una trentina in banda laterale, FM non ne ha perché è una radio americana, però va bene. Giuseppe, mi ascolti ad Alghero con questa radio, sì? Sì, che ti ascolta. Non sento risposta, Giuseppe, lo senti a Claudio? No, non sente lui proprio. Sì, già mi sente, Giulia mi sente. C'ha la stessa potenza che stavo usando poco fa, 20 watt, la radio già è buona. Va bene di radio, no? Antone, anche tu mi senti bene? Cazzo, sembra così. Ma, Gianni, la mia timbrica è tipo come sta uscendo Claudio, la timbrica. No, è proprio quello si sente che è un bel compresso, bella forte, bella compressa. No, no, è bella una bella radio. Sono diverse come tipiche, che ma è bella forte. E questo l'ho comprato da Gigi Vulcano, penso di sì, penso che sia modificato. La capsule non è la sua perché l'ho vista, spinge un bel, ce l'ho a due, mi. Ce l'ho a due e toni a due, capito? Me l'ha regolato Roberto con lo strumento, sì, è modificato sicuramente. È il suo Marco? No, no, originale di negozio. Ed è regolato a 7 il volume. Lo vuoi sentire a 10? Guarda, ti faccio così a 7, sta salendo e non cambierà molto. Così a 10, distanza 30 cm dal mic. No, non cambia nulla, ma è uguale. È uguale, devo dire la verità. Si sente molto, molto bene, comunque non cambia. Il volume di modulazione non cambia, è sempre lo stesso. Cappa. Comunque quello di Claudio è buono, sembra il CD di chi sembra, Claudio. Anche io ce l'ho a 10! Chi è che ce l'ha a 10? Che? Sembra super CD di quello di Claudio, come modulazione. Già, ma io ce l'ho a 2, ce l'ho a 2. Roberto ha detto di non aumentarlo di più perché altrimenti è troppo forte, capite? Allora lo tengo così con le regolazioni che mi ha fatto. Chi è che ha detto che ce l'ha a 10? Avanti, chi è? Buonasera. Io qua, sempre io. Ah, lui, perché ho cambiato radio, no? Dalla modulazione ti avevo capito, sto usando il DAC con l'MB più 5, bene mi senti? Sì, sì, benissimo. Già va bene, allora ogni tanto bisogna farlo andare anche questo. No, adesso è a posto già, c'erano le valvole completamente esaurite, sono riuscito a trovarle, montate, una bella pulizia dentro, tutto lo spray nei contatti, nei pomelli, pomellini, adesso è perfetta, ora, e anche più di 20, no, 25 modulati, con la T230 c'è collegato, quello di linea, sono tutte collegate lì le radio, va bene, avanti Antonello, la gardella ne caggiù da Antonello, riprendi Marco. Eia, sì, è una bella modulazione, poi vabbè la mia è diversa anche perché ho la voce la pirla, e quindi non c'è niente da fare per quella. Bene, signori, io quasi quasi vado a preparare il caffè, visto che sono le 8:30, direi che per oggi va bene, ok? Ci sentiamo domani, salvo invasioni barbariche, carabiniera, eccetera, eccetera, ok? Ehi Marco, va bene, dai, tanto adesso è ora di cena fra un po', dai, va bene, ti saluto e ci sentiamo domani, vai Gianni. Ehi, dai, saluto tutti e sono qui anche io, dai, che me l'ho chiamato, ci sentiamo, buona serata a tutti. Ehi, già, va bene, ma senti qualche tocco quando schiaccio la portante? Prova, ci sento il tac. Perché lo sento anch'io il relè di cooptazione, perché c'è il relè dentro, capito? Va bene, dai, allora ci sentiamo, dai, spengo anch'io, chiudo tutto, sono già meno 25, vado a cenare. Ciao Luca, ciao Gianni, ciao Marco, Antonello Alessio, niente, chi c'era anche? Natalino, se fosse in ascolto, chiunque è qua in ascolto su 10. Dai, buona serata a tutti, buon fine serata. A domani, ciao, passo e chiudo. Ciao! Ciao, buonanotte a tutti, ciao. Ciao Luca. Ciao, ma, ciao già, ciao. Ciao a tutti, dai, buona cena. A 3:80, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao, domani, ciao, ciao. Natalino, ci sei l'ascolto? Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao Massimiliano. Ciao, ciao, ciao Massimiliano, ciao. Ciao. Allora, a posto una cosa, sì. Sì, sì, mi è piaciuto. Tanto lui ha detto non lo deve fare colte, niente. A lui serve per stare con il camion in colonna e boh, ce l'è d'avanzo. Non gli interessava nemmeno il 45, capito? Perché quello è 120 canali. sul 5 fisso, di lusso. Va bene, sono contento per lui, da. Almeno è più utile a lui che a me quell'apparato. Va bene, Natalino, va bene, non risponde, sarà già alla TV. Buonanotte a tutti, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Non capire, Claudio, ancora ci sei? Già poco il dito veloce, eh? Poco il dito veloce, sì. Volevo capire se aveva un pochettino attento, lo preoccupo io per radio. No, no, Massimiliano, assolutamente no. Stasera dalla macchina sei con quell'apparato, è un bel cupo. E questo riceve più acuto questo baracchino, però è molto basso i toni, molto molto bassi. Ma è aumentato leggermente il diciamo il rato, se un po' chiarificato, ecco. Ma è peggiorato. Similia, tu la porti qua quella radio, io te la faccio sentire, è da paura. È la tua voce, hai molti bassi, capito? Ti mancano gli acuti. E ti mancano gli acuti, non c'è niente da fare, perché già te l'ho fatta sentire. E così e basta, non è un problema di microfono, perché il microfono stavo usando il tuo. E così, non c'è niente da fare. Lo stesso problema che avevi con il C80, uguale. Alla fine poi avevi messo l'85 e sei riuscito a dare un po' più di acuti. Però a te l'85 non ti piace, quindi la modulazione è quella. Non è chiara, è forte, è fortissima, bella, però non è. Hai troppo tonalità basse, mancano gli acuti. Va bene. Lì ci vuole un parametrico, un microfono parametrico, che non sia 85, non ti piace, un altro microfono con l'equalizzatore, e dai leggermente più di acuti e vedi come esce quella radio, perché è fantastica. Fantastica, te l'ho fatta sentire, è una bellissima modulazione. Però la tua voce è quella, è lo stesso problema che aveva Gianni, lo stesso problema. Un po' Marco riusciva a farla andare meglio di qualcun altro, Antonello la stessa cosa, ha dovuto mettere l'essa delta. Un sacco di gente ha problemi con questo tipo di radio. Vabbè, no, io adesso ho spento tutte e tre spente. Sto andando col Dati che lo volevo far sentire a cosa, ho capito? Sì, già mi stavo ascoltando qua. Eia. Vabbè, mi aspetto anche, infatti non c'ho manco nulla. 5 watt, messo anche la potenza bassa. Va bene. L'unica soluzione è mettere un 85 o un similare con un parametrico che ti dia un po' più di acuti, se no te la devi dire così, capito? Poi già te l'ho detto cosa devo fare. Vabbè, se no potresti attaccare un Tane più 3, allora ti risolve il problema. Allora col Tane più 3 canta in italiano, perché Tane più 3 è molto amplificato su quella radio lì. E poi c'ha molti acuti, un microfono che va con gli acuti molto alti, capito? Se no andava. Va bene, dai, vi saluto tutti di nuovo, vado a cenare che mi ha già chiamato mia moglie. Ciao a tutti, buonanotte. Di traverso. E di traverso non è che devo mangiare la gosta. Altre parate in due. Eia. Va bene, a parte gli scherzi, ciao. Ciao Claudio, buona cena con tutti. Ciao, lo stesso Massimiliano. Ciao. Va bene. La devo fare. diciamo, ma non vengono qua, ma tutto qua. Eia, ma cos'è il 14? Radio. Devi abbinare un microfono, ti ripeto, l'unico abbinamento buono per quella radio è l'MC85, però a te non ti piace sentire. Perché l'85? Perché è di linea e poi hai la possibilità, ti ripeto, di darle col parametrico un po' più di acuti e ti risolvi il problema. L'avevamo già fatto con C80, non era, era una favola, però a te non ti piace e quindi è così. È così, capito? No, vero, io non mando laterale, perché il segnale passa sotto, capito? No, chiedevo, cos'è un 14? Sì, 14, ma non è nuovo. Lo stesso Gianni, io avevo quel problema, non andavo, dai, ci vuole la... E infatti, te l'ho detto, io l'unica cosa che rimpiango potevo dare controlli veritieri, tutto il resto passa via. Io poi ho sempre preferito i baracchini, l'ho sempre detto, come vedi esce molto meglio di quelli là, dai. Claudio invece non può modulare se non ha, se non ha un tappa, non può modulare. Ma Marco, sono due cose differenti. Allora, se gli abbini un buon microfono, che questa è una bella radio, non è che preferisci il baracchino, è che effettivamente il 60 è molto più bello degli altri recruiter, tutto qua. C'è chi lo porta bene, c'è chi lo porta discretamente, capisci? Se metti un parametrico, come dice Claudio, un equalizzatore che ti può regolare la voce, chi si deve arrivare a chi si va tutti. No, ma infatti è così, Marco, è così. No, stavo andando con... Ho abbassato la potenza, perché non mi va di tenere la potenza alta, adesso dai. Adesso vengo avanti a potenza alta, perché migliora anche la modulazione. Eia, ma il problema di Massimiliano è che c'ha la modulazione bella, perché ce l'ha bella la modulazione. Il problema è che quel tipo di microfono ha bisogno di un po' più di acuti per spingere. Non è che io ho bisogno, Marco, parlo solo, io baracchino non ho, l'unico baracchino che ho è questo, il DAC piazzato, gli altri sono dentro l'armadio. Però non mi piace metterli qua perché non ci stanno, faccio un casino nero, e allora uso il DAC qualche volta, anzi lo sto usando anche spesso, capito? Però io mi trovo bene con le mie radio, io ce le ho tutte e tre, e tutte e tre le uso a giro, un giorno uno, un giorno l'altro, capito? Adesso ad esempio ero tutta la sera che stavo parlando col 140 e poi ho commutato e sto andando col DAX, capito? Se avessi avuto solo baracchini avrei usato i baracchini, ma non mi posso permettere di tenere quel tipo di radio spente. Cosa faccio? Ci rimetto di nuovo altri 200 euro sopra? No, meglio che il baracchino ti aspetto. Poi questo è un punto di vista, là io ho sempre preferito i baracchini, comunque già sono limpidi di loro, eccetera. Bene, bene, e invece già mi sono disfatto dell'857 ed ero contento. L'altro giorno Pomponio mi ha detto, sai cosa devi fare? Ti devi pigliare un bel HF, ma poi me la stacca a culo, non lo so. Fa cosa l'HF? No, non ve ne fate niente, io ho sempre detto che non ve ne fate niente, perché è un uso così, sono soldi buttati, capito? Io lo uso ad altri scopi, ma anche l'altro giorno stavo ascoltando con il 440 e in 10 metri c'era un amico e l'ho salutato con la mantova, capito? Quindi lo puoi usare anche diversamente, ma voi usate bene i 20, per parlare in 27 per ascoltare, vabbè, anche quello è bello, però va bene, capito Massimiliano? È lì il problema. Un abbinamento microfonico con più acuti devi avere tu, diversamente hai una radio eccezionale, te l'ho detto al telefono, te l'ho scritto e te lo ribadisco qua in radio. La radio è eccezionale, è nuova, bella, funzionante in tutte le sue funzioni, e il problema è la voce. Ok, vai. signori, io vi saluto, vi ho rimato la parola, ci sono qua no, no, no, se coincido. Ciao Marco, ciao Claudio, ciao, ti faccio l'ascolto. Marco e Chino. Ciao, ciao Massimiliano, salutami a tutti, ho sentito la voce di Gavino, saluto a tutti. Ci sentiamo domani, ciao Marco, chiudo, non riprendo più, che mia moglie mi ha già chiamato due volte, ciao ciao. Ciao, quelli ti esecutivo, ciao.